prepariamo qualche buonissimo. Marco, ci sei? Marco, ci sei? Marcolino Condor, se sei all'ascolto, K. Poi ero in 10 metri, ho avuto come una percezione extrasensoriale e sono sceso all'istante. No, no, vabbè, ero veramente in 10 metri all'ascolto, però siccome avevo lo scanner sull'altra, lo scannerino Uniden, che avevo messo anche la 27 come monitor, fatto che se entra qualcuno almeno sento le chiamate, capito? Cioè, non sento le chiamate perché è FM, e vedo che c'è un segnale, tutto lì. Ah, ok, aspetta. Ehi, anche oggi bella giornata, anche oggi non ho giugana di uscire, né niente. Me ne voglio stare in panciolle qua, ho bello pranzato, è tutto. Allora, Natalia, io sto utilizzando il 7009, mic originale, tutto a posto? Poi faccio una prova con calma. Yes, tutto ok. Questo è quello che ha la RG45 come presa microfonica, e avevo preso, non so da quale negozio, su eBay, un l'adattatore per non farmelo io, mi fa la mandronia di non farlo io, anche perché io non ho la cosa a crimpare, per crimpare gli RG45. Allora ho preso l'adattatore già pronto, che va da RG a 4 poli K, così vedo se funziona l'MB+5. Ne ho capito. E la crimpatrice ce l'ha Adriano qua. Come hai detto di Adriano? Che la crimpatrice ce l'ha Adriano. Vabbè, Adriano ce l'ha, ma io non ce l'ho, io poi non. Sai cos'è? Lì ti davano già lo schema, cioè te lo davano già pronto, non dovevi stare a cercare fili, trovare lo schema della presa microfonica originale. Tutto, la pappa pronta, è bella. Già lo so. Oh, signore. E tu, dimmi conto, sai, stamattina è entrato qualcuno oppure no? Io non ho acceso niente, anche sono svegliato anche tardi. È male anche, mi sono svegliato. Tutto rimbambito, per carità, guarda. E io ho sentito a Giulio, Luca, dopo ho sentito a Manuele. Ho pagato per palazzo in giù. Adesso starà andando a prendere servizio perché fa dalle 6 alle 7 del mattino. Chi? Manuele? E allora, così sono quei turni, mamma mia, 13 ore, a Fiume Santo dice che l'hanno messo. Ah, no, ma io non sapevo nemmeno che stesse lavorando, e che cosa fa lui? Guardia giurata sta facendo, tanta altra cosa non ne può fare con l'operazione che ha avuto alla schiena, poverino. Buono che l'abbia trovato, anzi, sarà portierato, no? Buono. Okay, ma ce l'ha la macchina lui, può guidare, sì, già, o lo accompagnano? No, ce l'ha la macchina. No, penso che sia servizio armato quello, perché di notte non è portierato, non penso sia portierato. No, servizio armato, ma lui il porto d'armi aveva, non lo so io, non lo conosco nemmeno. E lui l'aveva già fatta quando era a Milano lì, quel mestiere. Ah, poco compreso, e chi lo sapeva, io non sapevo nulla, Natalia, non lo conosco nemmeno di persona, Emanuele, quindi non potevo saperlo, e allora già, se c'è anche le abilitazioni, il maneggio e tutto è di lusso, super lusso, anzi miracolo averne trovato di questi tempi. Sì, infatti, no, ma alle guardie giurate glielo danno il porto d'armi, capito, subito, ed è quello per difesa personale, dura un anno quello, dopo devi fare i tiri, ogni adesso sono ogni 3 mesi che li fanno, prima era ogni anno. KK, adesso provo a attaccare quello, dai. Hai capito? Facciamo tutte cose. Facciamo tutte cose. Bah. Vediamo che cagata esce. Mamma mia, speriamo bene. Vediamo qua. Proviamo. Volume 4, tono. Il tono a 3. Non so nemmeno se sto uscendo di radio. Aspetta, i picchi ci sono, non li vedo. Già stai uscendo. Ma la modulazione è bassa, perché io sono solo a 4, Conta questo apparato. Cioè io su questo apparato ben poco l'ho usato il più 5. Capito? Posso provare ad alzare, tipo guarda, così a 5, prova 1, 2, 3 e adesso ci sono i picchi, altro che. Alziamo finché non fischia. Così, volume a 6, volume 6, 1, 2, 3, continuo, volume 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, c'è anche il moscone in camera, magari lo senti passare, com'è? Di lusso e non ha fischiato. Allora qua non innesca, vediamo a 10, aspetta, prova. Guarda, sottovoce, sto parlando sottovoce, distanza 30, anche 40 centimetri. Vabbè, si sentiranno i rumori ambiente, vediamo. E ce ne sono pochi rumori ambiente, va bene, comunque va, dai. E così com'è, troppo forte? Adesso è 10, e il tono mi interessa, Natali. Va bene così, non devi modificare nulla e non fischia soprattutto. E io naturalmente lo abbasso. E come mai? Ah, perché c'ho il monitor, c'ho l'altro baracchino acceso, vabbè, adesso lo abbasso a 6, se non è troppo forte lo lascio a 6, se non lo abbasso a 5. Mi vorrei sentire, però a meno che tu non riesca a registrare col cellulare l'audio usando il registratore del cellulare. Che dire, vabbè, funziona, meglio così, l'adattatore funziona, io l'avevo provato solo col mic originale, mi pare, questo apparato, non mi ricordo nemmeno se avevo provato gli amplificati. Aspetta che c'è col registratore qua. Eia. C'è anche il lecca lecca, vediamo. Sì, sta funzionando, almeno vedo. Oh, non trovo il registratore qua. E ci deve essere per forza. Ah, registratore di Android. Beh, al limite fai un video. Un video, pochi secondi, intanto per vedere com'è. Alla K. Allora, canale 10, frequenza 27075. Superstar 7009 della CRT, microfono ZGMB più 5, vediamo come va. Aspetta, te lo mando via WhatsApp. Oh, se vuoi usare la busta, la lettera cartacea, fai pure. Aspetti che accendo il computer. Via WhatsApp. K. E la potenza credo sia intorno ai 3-4 watt. E al minimo così, vabbè. C'è l'autoascolto, ma è inutile metterlo perché non l'autoascolto non ti fa sentire il segnale in aria, diciamo, ti fa ascoltare il segnale in bassa frequenza, praticamente. Quindi è inutile. Bisogna vedere il segnale modulato com'è, proprio l'emissione vera e propria dell'apparato, K. Perché a trasmettertelo io qua non fa, penso. No, mandalo con WhatsApp il video, lo condividi con WhatsApp. Adesso cerco il cellulare, l'ho lasciato chissà dove, allora vediamo. Così sono mezzo metro distante dal mic, vedo che i picchi ci sono, quindi mezzo metro così e così 20 centimetri. Vediamo. Ora vedi che fischia, ok. No, perché c'è il baracchino vicino, lo spengo direttamente. Gli muovo il power appena appena. Nel frattempo, vediamo. Così. Se al minimo sarà 2 watt. E così saranno 10, 12, una cosa del genere. Nonostante la portante sia salita, vedo i picchi dovrebbe farli lo stesso, va bene. No, non è uscita la registrazione, non so come cavolo funziona, io l'ho lasciato andare quando stavi parlando, boh. Però a riprodurre poi è un casino. Sta lì. Ah, tu che tratti computer, anzi Android è abbastanza semplice. Vabbè dai, un'altra volta. Adesso mi devo ricordare di abbassare i watt. I watti, eccolo qua, allora, ancora, in teoria dovrebbero essere 4 watt, in teoria, vabbè. Questo registratore non riesco a capire, ho schiacciato il coso rosso e stava registrando, però sono andato a farlo funzionare e non funziona. Aspetta un attimo, abbaidi un poco. Magari la registrazione, prova a vedere se in galleria la trovi, se no non saprei. No, vuole salvata, io non l'ho salvata, aspetta un attimo. Grazie. Marcolino, parla, che adesso ho capito com'è la situazione. Cappa, peraltro ero in modalità memoria, non capivo perché. Vabbè, allora, canale 10, modalità M, CRT 7009 con ZG MB più 5. Vediamo come va, distanza grosso modo 30 cm dal mic. Cappa. Cacchio, hanno trovato il corpo di quell'altro sub disperso, pare che sia lui, cavolo. Lo so, me lo stava dicendo mia moglie. Allo, te lo dico io quando devi parlare. Ancora, va bene, Natali, rinunciamo a questo punto, dai, non fa niente. Parla. Ok, allora, CRT 7009, modalità M, canale 10, microfono ZG MB più 5 da tavolo, 1, 2, 3, prova microfono, prova, K. Perché la sento a vedere, non si sente nulla. Vabbè, non fa nulla, dai, a futi dinde, era così una curiosità. Ascolta, sei uscito oggi, com'è la giornata? Qua sembra calda, cioè almeno uscendo dal terrazzino sembra calda. Vabbè che c'è il sole, quindi... Sì, già è calda, a quanto stava dicendo mia moglie, si stava bene oggi, io non sono uscito, la verità. Questo registratore è una cagata. Non c'è niente da festeggiare. Parlo io e si sente poco a poco. Parli tu e non si intendi nulla, Bruce. Non capisco perché. Ehi, ma quello di Android, sì, c'è quello del cellulare. Ehi, puoi vedere che ha registrato WhatsApp. Aspetta un attimo. Prova a vedere se si sente qualcosa, Marco, che te l'ho mandata. Oh, mi sto incasinando anch'io, Ma boh, io non lo so, questo registratore non registra. È un registratore del Menga. Allora, sì, c'è un WhatsApp, ecco, vediamo. Sento QRM. Eccola la voce. Aspetta che me l'ascolto, dai. Devi dire se si sente, però. Sì, già registrato. Ha registrato, vuol dire. Sì, io. Sì. Già andò bene. Sì, sì, andata via, l'ho ascoltato. Sembra un po' plasticoso, però vabbè, è la timbrica dell'apparecchino che riceve, più che altro la microfonia del cellulare, dai, che gli fa quell'effetto, almeno spero. Poi lo ZG non è lo Shure, capito? Lo Shure è di una limpidezza assoluta, questo un po' di timbrica lo fietta un po', lo fa, però diciamo che va bene, dai. Perché? Ah, sono in modalità memoria, aspetta che esco da qua. Oh, Dio grazie, in USB ero. Perché stavo ascoltando su e allora è rimasto in USB. Bien, bien. Cosa ascolti in 10 metri? Ci arriva appena 305. Il tuo? Questo arriva a 30.105. E come sarebbe? Quella da 60 gli hai fatto? No, questo ha 40 canali per banda, però banda ne ha credo roba di 10 bande. Quindi 40 per 10, 400 canali. Mi pare sia 25 spiccioli, però arriva fino a 30-105. Comunque già è togo ascoltare anche radiatori, perché tu non fai altro che cambiare di due bande e sei già tipo 28,4, voglio dire, no? E così fai il paragone tra la sensibilità del baracchino e di altro, capito? Per fare i confronti di ricezione. No, mi chiedevo Natalia, ma siccome nella registrazione si sente che tu hai lo squelch aperto, come fai a sopportare lo squelch sempre aperto e sentire questa friggitrice continua, mamma mia, no, io uso sempre lo squelch, perché almeno qua lo puoi usare tutto il giorno acceso, se chiamano e sento posso anche rispondere, per esempio, ma almeno non senti questo fruscio continuo, è perché dai nervi, No, l'avevo aperto perché sono andato a ascoltare sopra, anche se non c'era nessuno, e l'ho aperto per quello. No, paghisso, perché qua QRM sempre, per esempio adesso guarda, ti dico quanto ho di segnale, è 4,5-5 di QRM, però non è QRM solo, c'è anche propagazione, segnalini, appaiono, scompaiono, capito? O come dice qualcuno, appariscono e scompariscono. E anch'io c'ho quel tanto, va. Un po' di QRM appena appena. Quanto? Quanto ti segna lo smitter? 5. 5? Ah, siamo lì però, da. Però, caspita, anzi la tua antenna è silenziosa, Natalie. Tu avevi la gain, sì, attualmente, sì. Quella è più silenziosa, eppure vedi che non è questione di antenna, è proprio la robaccia che c'è in giro, LED contro LED. A proposito, il sindaco ha detto che vuole, per fare risparmio dalla corrente elettrica, vuole installare i lampioni a LED, cioè cambiare credo la lampadina e mettere tutta la lampadina a LED. Aspetta il rumore che creeranno quelle. Lo so. Quelle faranno casino. Oh, chi lo sa, può darsi di sì, può darsi di no. Però non mi ispira molto la cosa, vabbè. Io mi ricordo che già, come si accendevano i lampioni a una certa ora, in automatico, sentivo già come nell'allacciamento del QRM, poi sai la gente accende tutte le luci, no? Quando scende il buio, inizia a accendere le luci, lampadine, magari tornando al lavoro, accende i televisori, ecco perché tutto questo QRM. Vabbè, più la propagazione, qualcosina già c'era, c'era qualche DX, 5 dintorni, 10 metri lo stesso sentivo segnali, ok. E io ho le lampadine a LED qua, ma io penso basta mettere un filtro in rete alla presa principale dove attacchi baracchino e tutto, e quindi se la filtri non dovresti sentire niente. Sì, pensa che una volta mi aveva chiesto, chi era che me l'aveva chiesto? Mi pare Massimiliano Bulldozer, mi aveva chiesto se esistevano dei filtri per non prendere disturbi in 27, no? Tipo QRN, roba elettrica. E io gli avevo detto di no, ma non conoscevo nemmeno l'esistenza di quel filtro che si mette tra baracchino e antenna, no? E praticamente in base alla frequenza che usi devi accordare, c'è proprio queste due o più manopole e quando trovi il massimo, diciamo, accordo, il massimo compromesso, ti elimina in modo anche significativo il QRN. Io lo chiamo QRN, QRM, come lo vuoi chiamare, vabbè. Infatti. No, ma ci sono quei filtri che mettono nei computer e dovrebbe eliminare quello lì. Adesso me lo faccio dire da Luca la situazione e te lo faccio sapere. Sì, sì, l'ho visto, me l'aveva mandato anche... Sì, chi me l'aveva mandato? Luca Flipper, mi pare, me l'aveva mandato. Praticamente sì, sembra un accordatore, tu accordi, trovi il punto migliore e ti elimina il QRM, però naturalmente come ti sposti di frequenza devi stare sempre a accordare. Ho detto no, no, lasciamo stare, mi tengo il QRM. Però vabbè, se uno usa sempre tipo la tripla 5 dintorni, lì per pochi kHz non c'è nemmeno bisogno di accordare. Certo, se passi da una banda intera all'altra, allora probabilmente devi accordare. Ok. Poi ti volevo dire un'altra cosa e mi è passata di mente, aspetta, che mi spremo le meningi, mi sta venendo anche lì, il catarro mi sta salendo. Quello sono un mese che ce l'ho, sono di più pure. Veglia, caspita che belle giornate però, queste erano giornate da scendere al mare, che cacchio ne so io, guardarsi il mare, fare una passeggiata. È che non ha giugana proprio, sono a terra, fisicamente sono a terra. A terra. Non puoi capire. E non so il perché nemmeno. Va bene. Cos'altro devo provare quello? Vabbè, sono contento che questo microfono vada. No, ma almeno a sfruttarlo mi. Perché sembra inutile che l'abbia comprato. La batteria, ho messo una batteria della... mi pare Energizer. A me mi fischiava il 3009. In trasmissione ti fischiava, ma tu non sentivi il fischio nell'altoparlante suo, no? Ma lo sentivo, sì, già lo sentivo io, ma sto basso ma fischiava. E allora dovevo abbassare il Mikey Gain. Adesso non fischia più, ho toccato dietro lì e non fruscia più. Cosa hai toccato? Ma gli hai fatto una massa come fanno gli americani? Tipo un bulloncino, una vite, prendono quel cavetto giallo e verde o come si chiama e lo mettono proprio a massa fisicamente. No, non ce n'è massa, non me l'ha fatto. Ho toccato quella presa che c'è scoperta nel 3009, o era sporca, c'era qualcosa magari, e mi faceva quel difetto lì. Ah, la presa del frequenzimetro, sì. E beh, quella prende abbastanza polvere, ma già c'è, grazie a Dio, il disossidante Drigot, che è come la mano di Dio. Comunque utile, perché i vecchi 3009 non avevano quella presa microfoni, quella presa del frequenzimetro. Io l'avevo anche comprato dall'Inghilterra quel frequenzimetro. Poi dopo quello è uscito di produzione, non l'hanno più fatto. Mi è andata bene, ce l'ho sempre da parte, funziona, colore blu, c'ha due luminosità, quella alta e quella bassa la metti di notte quando c'è le luci spente, se no ti fa cieco. Questo LED Death cosa è? Ripeti? Ah, LCD, LEF, una cosa del genere, adesso non lo leggo, che sono LCD off. Sì, allora se premi quello, non mi ricordo se è sopra o sotto la scritta del tastino, ti spegne tutto lo schermo tranne la retroilluminazione. Purtroppo la retroilluminazione rimane accesa, cioè è inutile spegnere il pannello LCD e lasciare la retroilluminazione, comunque sì, ti fa sparire tutto, tipo se non vuoi far vedere su che frequenza stai operando, che ne so, qualcuno di se sembra mobile, cavolo ne so io. Se lo vuoi provare, provalo, mi sembra che l'apparato sia rotto, e poi ripremi di nuovo LCD off oppure function LCD off e ti ricompare. K, io ho capito. E comunque questi apparati allora sono molto simili col tuo, no? Tra il 6009, il 7009 e il 9009, però ognuno ha una piccola, come dire, caratteristica sua, peculiarità, come lo vuoi dire, cioè questo ti fa certe funzioni che magari, cioè funziona in modo analogo ma un po' diverso, come dire, vabbè, siamo lì, però la scheda grosso modo è quella, vabbè, 9009 c'era più piccola, però è sempre quello schema lì, diciamo. Ma mi stupisce che abbia 10 bande invece che sì. Sì, perché qua non hai il selettore. Questo è il 7009, nota bene. Non è come il tuo, questo è il 7009, è quello che sembra un bibanda VEU. Sì, lo so qual è. Aspetta che ti dico quante ne ha, un attimino, resta qua. Sì che ti sento. Ciao Nico, ben sentito. È Santiago 9, Radio 5, ma noi siamo vicini, capito? Sì, tutto bene, insomma. La salute che non c'è più. Ho capito, condoglianze Nicola, sentite, cosa vuoi che ti dica? Io sempre facendo analisi, sto, mamma mia, sembra che non finisca più questa cosa. Ok, un abbraccio Nico, fatti sentire più spesso. Ciao Nicola, sono tornato. Marco, condoglianze anche da parte mia. Non è entrato. Purtroppo queste sono tappe obbligate della vita. Per stasera una buona passeggiata, visto che la giornata è buona, anzi direi ottima. Fate una passeggiata anche da parte mia, che sono inchiodato a casa. Ciao Nico, riprendi. Ciao Nicola, comunque Santiago 8 qua, 8, ok, ciao, buona serata, ben Natale. K, cosa ti volevo dire? Io l'ho già salutato a Nicola, non c'era qua, era a Palermo e quindi non entrava per quello, non so se hai ascoltato quello che ha detto. Va bene, riprendi Marcoli. Sì. Sì, allora confermo, sono 10 bande da 40 canali, va dalla banda A alla banda J, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, sono 10 bande, credo che sia tipo 25 615, 30 105. Per esempio questo non ha i 12 metri, non ce li ha, mentre il presidente è uno dei pochi che ho io, anzi credo l'unico, che ha anche i 12 metri. È quello lì, vedi, che almeno per i 10 metri serve, invece questo manco per i 10 metri perché arriva a 28.305 mi sembra, questo qui. E io so che vanno da 450, 500 e quindi non ci arrivo io con questo, hai capito? Basta programmarlo Natali, io ho anche il cavetto, anzi ti dirò di più, Il cavetto è per il 5000, per l'Intec 5005, no? Però il 7009 è una presa posteriore, mi pare, no? E così il 9009, no? Praticamente questa presa esterna è per comodità, no? Tu dici allora devo comprare un altro cavetto perché l'attacco è diverso, invece no, perché quella presa praticamente ha un rinvio, ha un filettino che va alla scheda madre con lo stesso spinotto che ho nel cavetto dell'Intec. Quindi con quel cavetto Intec ci programmi il 5005, il 7009, il 9009 e anche il tuo nuovo, perché sicuramente anche tu hai quella presa posteriore, sembra una mini USB come presa, grosso modo d'aspetto, però non so se sia uguale. È praticamente un rinvio, è un cavettino che va alla scheda madre con lo stesso spinotto, salvo imprevisti, che ho io. Quindi tu lo puoi programmare, quello li puoi fare tutti i canali che vuoi, li puoi fare lo stesso 60 canali per banda, e puoi ascoltare 10 metri. Io ci ascolto anche a 29,6, 29,6,20, 29,6,30 il ponte in HF, i ponti 10 metri in FM dei radioamatori. Non so se siano francesi o tedeschi, sento un po' di tutto là. Io ho capito. Ah, la presa esterna, questo. C'è la esterna. Ma cosa ti ho detto io? Tu apri il coperchio, stacchi il rinvio e colleghi il cavetto che ho io, uguale. Io l'ho visto già con questo, con l'altro, ho detto, capito? Ecco perché loro, perché l'hanno presa esterna, l'hanno messa esterna? Un po' per comodità e un po' per venderti anche un secondo cavetto. L'hanno fatto diverso dall'originale, in modo da venderti un cavetto nuovo e se lo fanno pagare. Invece per il software ho controllato il sito Aniton. E il software sembra lo stesso del vecchio 5555, capito? No, non c'è scritto né plus né niente, probabile che sia lo stesso software e che quelle funzioni aggiuntive le legga dalla radio, le riconosce dalla radio quando va a leggere i dati, capito? Io ho capito. Bisognerebbe provare a vedere se entra quel cavo esternamente. Sì, guarda, dovrei guardare dovrei guardare su internet la scheda, però serve una foto molto dettagliata. E io l'ho già fatto, Io quando ho programmato il... aspetta, qual era? Non mi ricordo se è questo o quell'altro, il 9009. Io ho programmato i canali come dicevo io. C'è praticamente per la zona 10 metri amatoriale in USB ho messo lo zero finale per comodità, poi una banda l'ho riservata ai radioamatori, alla banda inglese, ai CB inglesi, no? Che hanno tipo 27, 781.2, capito? E solo in FM quella banda. Io ho capito. Ma infatti Natalì, la versatilità, cioè il bello di questi apparati è che sono versatili e li puoi mettere le bande come vuoi tu, no? Canali, ne puoi farti le bande da 50, da 60 massimo, e poi puoi scegliere di mettere, per esempio nell'analogo tuo, io i canali normali ce l'ho sulla banda B, sul selettore devo mettere banda B e i canali normali, li ho disposti in un modo particolare perché per far coincidere, come spiegartelo, non te lo spiego. È meglio. No, io volevo vedere se entrava il cavetto tuo nella presa esterna che ho io. No, garantito, te lo dico già, non entra. Guarda, la presa esterna, se tu mi confermi, dall'aspetto ricorda una specie di mini USB. Non micro, è una mini USB. Non so se sia uguale però. Invece basta saltare, aprire il coperchio, saltare quel rinvio che va dall'esterno alla scheda madre e mettere il cavetto solito. Una cosa, vediamo, vabbè, mi devo documentare, dai. Comunque il software sembrerebbe ancora quello, Io ho capito. Sembra una presa di telefonino, sembrami, quella che è esterna. Sì, mini USB. aspetta, cosa ti volevo dire però? Non solo, ma io ho già il file pronto di programmazione. Io ho salvato col nome tipo, adesso non mi ricordo, potrebbe essere tipo file programmazione definitivo per Intec HR5L5, cioè non faremo altro che mettere il software, collegare l'apparato, leggere dall'apparato, perché prima devi leggere l'apparato che cos'ha, poi caricare, aprire il file con la programmazione e caricarlo sull'apparato. Fatta la programmazione. Figurati. Eppure volevo provare a vedere con uno di quelli di quei caricabatterie di telefonino se entra. No, mi non collegare nulla, Natali, mi raccomando, non collegare nulla lì. Niente che sia acceso e non collegare niente sotto tensione. Se devi controllare le dimensioni, sì, uno spinotto, però che non ci sia l'alimentatore collegato alla rete, per carità. Sì, niente, non collego niente. Volevo vedere se entrava qualche spinotto per farmi il cavetto come il tuo. E perché farlo? Sei già pronto, Natali. Poi ricordati che il cavetto USB sembra un pezzo di plastica, però dentro c'è una specie di microschedina, capito? Non è solo una USB, c'è un controller dentro, come si chiama? Che deve anche risultare compatibile, no? Se no il computer non lo riconosce, ci vogliono i driver per il cavetto, vabbè, io dovrei avere tutto, di solito non butto niente, poi faccio doppia copia, le metto su CD, cioè su DVD, su hard disk, le cose più importanti le salvo così, in tanti posti, dai. Sì, per non perderle, ho capito. Per dire, avevo un hard disk della LACIE, così si pronuncia, e vabbè, tedesco, non so, poi vabbè, l'hard disk che c'è dentro è un altro, penso sia un Toshiba, l'ho tenuto come una reliquia, no, non l'ho usato nemmeno tanto, l'avevo riempito di dati e basta. Un giorno vado a avviarlo e sento tic tic tic, boh, morto. E se senti quel tic tic vuol dire che è partita non il controller ma roba di disco proprio, è fisicamente testina, non lo so, morto, perso, vabbè, che non era roba vitale quella roba che c'era, però un peccato. Sì, lo so. Sì. Io qualche disco ce l'ho qua. Poi era di quelli, sai, da tavolo, no? Quelli grandi, era hard disk grande, non era quelli piccoli. Vabbè, capita. Per esempio, l'hard disk del portatile era valido fino all'ultimo momento, cioè quel computer portatile era del 2005, fate il conto quanti anni, e l'hard disk era perfettamente funzionante. Figurati, io mi ho messo l'SSD qua, però ho sbagliato, mi toccherebbe riformattare tutto perché vuole in un altro formato, se no non mi legge gli altri due hard disk che ho, meccanici, capito? Devo farli tutti in quel formato lì. Sì. Lo devi formattare, perché anch'io a seconda di che formattazione mettevi e dove lo collegavi non la riconosceva. Per esempio la TV box Android, come lo vuoi chiamare, dai, il box Android, la scatolina che colleghi, non riconosceva la partizione, come si chiama quella, XFAT mi pare. Ho dovuto mettere NTSC, mi pare. No, come si chiama? No, NTFS, scusa. NTSC è la TV. Infatti, un macello. Invece è un altro formato ancora per essere compatibile con quelli meccanici. Non è né FAT né NTSC, come cavolo hai detto. Hai capito? È un altro formato e va a commesso dal BIOS. Almeno ci può uno scopri che è sparito veramente. Quindi bisognerebbe riformattare tutto e così me li conosce tutti quanti. Invece adesso conosce solo l'SSD. Oh, c'ho anche uno di quelli esterni. La 500. La 500 è. Ed è esterno, USB, appitto l'hard disk, quelli portatili. Ehi, l'avevo preso anch'io. Amazon stava facendo una piccola offerta, piccolo sconto però, ed è della SanDisk. Praticamente sembra una specie di biscottino, no? Come dire, un wafer, come lo vuoi chiamare? Piatto, piccoletto, 500 giga. E praticamente è veloce, cioè con la chiavetta normale, vabbè, la chiavetta normale di quelle della Nudre 32 giga, scarichi, la roba la trasferisci a 8 megabyte al secondo, megabyte, sì, non megabit, no, e lì 300 e più megabyte al secondo, non ero abituato, e quello è niente, ce ne sono molto ma molto più veloci. Sì, infatti, questo SSD mi ha reso il computer veramente di lusso. Quello interno, sì, sì, sì, se il computer è moderno te lo velocizza molto. Ma in realtà qualcuno mette l'SSD anche in computer di 10 anni fa e dice che cambia dalla notte al giorno. C'è una velocità notevole, migliora tutto, la cache, tutto quanto. E infatti, il mio c'ha 12 anni, il computer è cambiato dal giorno alla notte. Se metti uno di quelli meccanici, si drommi. Dalla notte al giorno, la notte è negativo, il giorno è positivo, il buio è negativo, luce è positivo. Signore, bene dentro. Bisognerebbe provare se entra quel cavo tuo, se no tocca aprire l'apparato per programmarlo. No, no, Natalie, non può entrare il mio cavo. Il mio cavo è fatto per collegarlo alla scheda madre, te lo dico già. Ah, non è di quelli esterni? No, no, interno, interno. Interno si collegava a quello, Natalie. Il primo 5.5 con tutti i nomi vari si collegava all'interno, che io ricordi, Sì, sì, confermo, confermo. Poi gli altri hanno fatto la furbata, dice per comodità degli utenti, sì, per vendere un altro cavetto. Certe volte a seconda del venditore che trovi ti chiede 30 euro per il cavetto, ma stiamo scherzando. Eppure provo a vedere se c'è il cavetto per questo esterno. Beh, no, già lo trovi con l'attacco giusto, che ti lo vuoi ripagare. Tutto questione di dinero. Quindi non capisco. E allora, soldi, soldi, soldi, non esiste altro, per carità. Infatti. Immagini, apriamo l'apparato e c'è il cavetto attaccato. Appunto il modello. Della Biazzuddu. No, da me c'è, però è collegata alla cosa esterna, alla presa esterna. Ma infatti quello è un rinvio, è un semplice filettino elettrico, mi pare siano 1, 2, 3 poli, credo. Figurati. Praticamente è il cavo dati, due sono il cavo dati, uno, boh, non saprei, non ho guardato lo schema. Te lo vuoi immaginare? Guarda, allora, adesso ti faccio un paragone, allora, Amazon, cavo programmazione USB per radio AT5555N, e vabbè, la versione N, no? Che praticamente è questo, il 7009 sarebbe, mi CRT 7009 è il 5555N, ed è quello che si collega dentro alla scheda madre. 35 euro e 84 centesimi. Ubu. Chi lo vende? Radio Center, non so chi sia, credo che sia spagnolo il negozio, vediamo. Mo te lo dico, Allora, Radio Center. Vediamo. Madrid, sì, spagnolo. 35 euro, buoni, maledetti. Io l'apparato l'ho preso da Media Globe e poi voglio vedere se ce l'hanno questo capo qui da Media Globe. Grazie. Io ho messo la ricerca, allora cavo programmazione Anicone 5555 e ho aggiunto plus, l'ho aggiunto adesso in modo che sia quello da collegare fuori. Questo, ah no, questo non è quello, ok. Adesso cerco. Ecco qua. No, no, questo è PC Click, no, no, no. Pucci. Allora, da eBay, quello sempre che devi collegare dentro però. Quello universale poi, perché con quello fai tutto, cioè se tu prendi quello per le ultime versioni non ti serve per le vecchie versioni, invece con quello vecchio ci fai tutti gli apparati. 24 e 84 più 5 e 61 di spedizione, insomma una trentina di euro, dai, siamo lì, nuovo, chi lo vende questo, vediamo, chi cacchio lo vende? Dal Regno Unito, niente meno. Non ti fanno pagare la dogana. Purtroppo il Regno Unito è uscito dall'Europa lì, dall'Unione Europea, e se sei fortunato non passa, cioè ti arriva e non paghi nulla, però se becchi il controllo a campione ti devi pagare pure la dogana. E comunque i prezzi bene o male sono quelli, solo che sto vedendo sempre il cavetto vecchio e non vedo il cavetto nuovo con l'attacco tuo, no? Infatti. Vediamo un po'. Ah, comunque il cavetto vecchio, credo anche il nuovo, però il vecchio, era composto di due parti, non so perché. Composto di due parti, c'era una parte che dal lato USB e poi dal lato proprio spinotto finale, e praticamente si collega a queste due parti del cavetto tramite un jack 3.5 stereo, credo, non so perché abbiano, anziché farlo unico, non gli hanno fatto questo connettore intermedio, boh. Che vuoi che ti dica? Adesso guardiamo questo. Ascolta, su Media Globe hai guardato? No, negativo, su Media Globe no. Forse l'ho trovato. Costa 14,61. 14,61 da Media Globe? Vediamo se lo trovo. Non lo trovo per AliExpress. Io su Media Globe ho messo un cavetto in programmazione. È la gagna. Com'è che non mi compare? Con tutti e due i temi, cavo programmazione oppure cavetto programmazione, su Media Globe non mi compare, mandami il link, vediamo che roba è. No, su Media Globe non ne ho trovato, no. Su AliExpress, però ci mette 15 giorni, dice, arrivare, se non un mese buio. E un mese anche, quello l'ho visto quello lì, però non vedo quel connettore intermedio, sembra una cosa diversa lì, speriamo che i driver vadano anche bene per comandarlo, no? Con Windows, eccolo qua, 14,61, spedizione 1,42, spedizione AliExpress standard, ho capito, potrebbe essere anche valido, però se loro poi ti dicono una cosa, che spediscono con AliExpress standard e poi usano Kainao, se usano Kainao praticamente il pacco arriva in Italia e viene consegnato a questa specie di fulmine gruppo di corriere privato che non consegna i pacchi, il tuo pacco scompare, non solo, ma scrivono che è stato consegnato, è una specie di imbroglio, capito? E lo ce l'ho, eccolo qua, sì, e questa è una variante, ma potrebbe essere valido, mi controlla le recensioni, 5 stelle, 12 recensioni, 5 stelle, probabilmente funziona. Su eBay. Chi è? Ciucciù. Su eBay. Su eBay? Ne ho visto uno su eBay, ma è roba di 30 euro. Luca sì. E chi lo deve pagare? Luca, tu sì. Ehi. Premi bene prima di parlare. Ho detto chi lo deve pagare. Natalino lo deve pagare, se lo vuole prendere. Ma io gli ho detto, ce l'abbiamo il cavetto, cosa vai a comprare? Tanto la programmazione la fai una volta e poi ce lo lampi. Allora io c'ho quello del Baufeng dell'888, lo compri una volta, poi non ti vai più nulla. Allora vediamo AliExpress, le recensioni sono tutte 5 stelle. Fornito qua, funziona perfettamente, CRT 7009 funziona, tutti 5 stelle, probabilmente funziona, diciamo diverso, e lo spinotto sembra veramente una USB, mini USB dovrebbe essere, o come si chiama, mini USB, l'aspetto è quello, K. C'è la mini e il micro USB, che uno è per le videocamere e l'altro è per i telefonini. Sì, questo è il mini, esatto, per le videocamere, il tipico connettore non troppo grande e non troppo piccolo. Il software, vabbè, già si trova, sembra pure quello vecchio il software, bisognerebbe verificare. Il mio è marcato Intec il software, magari non cambia nulla, cambia il nome, ma meglio avere quello originale, K. Guarda, se glielo puoi prestare, prestaglielo tu, tanto ho dato una voce, non è che ha segnato i programmi. E sai cos'è? Lui lo faceva per non aprire l'apparato, perché il mio lo colleghi dentro, sulla scheda madre. Quello originale della versione nuova dell'apparato è esterno, e non devi nemmeno aprirlo, capito? Ho capito. Perché magari poi se lo apre gli viene la tentazione di aumentare la modulazione M, cosa che ho fatto perché il mio usciva, sembrava un omologato di Kikia, sembrava un FM500S appena tolto dalla scatola. E ho aspettato 24 ore e poi gliel'ho aperto. Ho detto no, inutile che esca a basso di radio, non esiste proprio. Ma se è un fattore di garanzia è un conto, c'è un sigillo e una volta che lo rompi è un casino, ma se non c'è neanche sigillo, già quina futti, apri, boh, e fai. Sì, infatti, poi sull'Intec sigillo non ce n'era, sul 5005 della Intec. Potevi anche ripristinarlo originale una volta che se doveva andare in assistenza. E poi non essendo omologato cosa di non affutti? Abri aumenta tutto. Abri. E aumenta il tasso, abri la graviglia, mi. Apri la radio, apri i macchini, apri i VAT, tutto. Ah, poi? Sì, giustamente, non essendo omologato è inutile che esca basso di radio appena proprio passabile, deve uscire bene. E poi in FM era troppo chiuso, era veramente troppo chiuso. Sei basso, allora gliel'ho aperta. Il giusto è senza eccedere, se no poi un pasticcio. Ma se non lo vuoi aprire, si mette un mixerino come questo che sto usando io adesso, che ti trasforma, capito, ti trasforma i volumi, ti trasforma gli alti, medi, bassi, oppure un pedale di chitarra. Basta che metti uno di quelli e trasforma un baracchino come una radio HF. Luca, prima stavamo parlando di quella specie di accordatore per il QRM, cioè ti toglie il QRM, mi pare che il video me l'avessi mandato tu, ma il nome di quello com'è? Come si chiama quell'aggeggio? Ha una marca, un modello? Io ho comprato solo la scheda, poi il resto l'ho montato io, il case, i connettori, il connettore per andare in trasmissione, tutto io l'ho collegato. L'ho preso su AliExpress, dove compro quasi il 99% delle cose, e si chiama QRM Eliminator, lo vendono già pronto anche col suo box e tutto quanto. Questo però me lo sono sembrato io perché costa molto di meno, così sono soltanto la schedina, capito? Ah, ecco, quindi è in kit da montare, vabbè, non è un problema. QRM Eliminator, ho capito. Ascolta, quanti canali ti copre prima di dover riaccordare? cioè se ti sposti di 5-10 canali ancora riesci o devi di nuovo ritoccare? No, probabilmente non c'è da ritoccare, ma poi sono dei potenziometri, non è che è tutto automatico, sono i potenziometri che tu giri, tre potenziometri che tu giri in base al QRM che hai in quel determinato canale, perché a volte capita, ti sposti sull'11 per dire c'è QRM altissimo, vai sul 10 e non ne hai, vai sul 40 e ce l'hai altissimo, capito? Ma io non lo sto usando, l'avevo messo anche in vendita perché non ne ho QRM io, l'avevo preso così per uno sfizio e per assemblarmelo io. Ah, vedi, e allora io non avevo capito bene come funzionava. Io credevo che funzionasse in base alla frequenza, cioè per esempio tu sei qua, accordi qua, poi passi in 10 metri a ascoltare, devi di nuovo riaccordare, non funziona in base alla frequenza, funziona solo in base al QRM che percepisce, boh. Certo, poi c'ho anche il DSP, capito? Uso proprio male, che non riesco a sentire uno basso basso, attacco il DSP e pulisce tutto, e anche quello che è come quello che ho dato a Coso, a Natalino, capito? Sì, ogni canale, quando ti sposti, se vedi che il QRM è alto, ma va bene perché ha molto QRM, capito? Io QRM ce l'ho al massimo a 2 quando è proprio forte, quando gli altri ce l'hanno a 6-7 io ce l'ho a 1, capito, 1,5. Sì, io attualmente ce l'ho 4-4,5 e anche a 5 quando arrivano segnali di propagazione, però non è poco, capito, è rumoroso, abbastanza rumoroso K. Capito Natalì, io ho preso un abbaglio, siccome mi sembrava tipo accordatore, ho detto magari è legato alla frequenza di utilizzo e devi riaccordare, invece no, in base al QRM presente, cioè te ne freghi, te lo regoli e boh. E infatti. Sì, no, si va. Volevo sapere quel filtro per le lampadine LED che stavi dicendo da attaccare alla presa, che causa cacchio è, Luca? Quello stavamo parlando stamattina, è un filtro che lo trovi sui vecchi computer anche, capito? Io ce l'ho sempre attaccato alla presa principale, così che poi ho due ciabatte, considera che anche le ciabatte portano rumori, capito, rientrano in magazzino. Con quello lì non ne ho problemi, ho le due ciabatte attaccate, il mixer, la sera accendo le luci LED, mai avuto un problema da quando ho messo quello lì, capito, né alternate, né fischi, né niente. E lo trovi nei vecchi computer, ti mando la foto. Ma non è che nell'alimentatore del computer no questo filtro? E ce l'hanno anche gli alimentatori, ce l'hanno sì. Io ho questo qua che è nell'alimentatore che elimina il noise anche, per esempio, c'ha un pomello, c'è scritto noise, reduction, elimina il noise tramite la manopola. Quello lì ce l'ho anche io. Quel filtro che stai dicendo tu, dove si trova nel computer? No, nei vecchi computer fissi, capito? Li trovavo. Aspetti, mando la foto. Che lo voglio vedere, così era manco. Vediamo se riusciamo a buscarlo uno. Se no già li vendono comunque, non è che li trovano nei computer, li vendono appositamente. Così, se Marco se lo vuole mettere, se lo mette quel filtro lì nella presa principale, dove c'è attaccata tutta la roba e via. Oh, sono in bagno, un attimino. Ok. Cioè, non è che sono in bagno, devo andare. Se voi mi portano il microfono ci faccio sentire anche i rumori del... Perché non vai a farti... Vabbè, date. Ma lo sai che... E per il presidente esisteva un microfono chiamato President Liberty, che era un microfono tipo wireless, non proprio wifi, wireless, funzionava fino a 100 metri in area ottica, tu praticamente potevi girare per la casa con questo microfono altoparlante, potevi andare in bagno, metterti sul trono e continuare a parlare in radio e magari far sentire i suoni. me lo volevo prendere, è comodo, io potevo praticamente stare per esempio a letto, e tanto per cambiare, sdraiato, e modulare dalla camera mia e il baracchino rimanere qua, capito? E lì ricevevi l'audio e trasmettevi anche la tua voce. Guarda che era una figata assurda, non lo trovi più, è introvabile. Uscito di produzione. Lo so. Maria, Paola con Irene, io non so che fare. Quindi abbiamo. E se no che sul registratore di un telefono canto mi ha fatto arrabbiare oggi. Però funzionava, vedi? L'audio io lo sentivo anche quando parlavi tu, che dicevi prova a parlare, io ti sentivo bene. Vabbè, a dopo, scappo. Ehi, un poco volume, ciao. Guarda, te l'ho mandato. Ah, nel coso di alimentazione è attaccato. È un toro dei due condensatori. Sì, ma ce ne sono vari modelli, capito? Quello è perché magari uno c'ha un computer a casa, no? Un alimentatore così, che non usa più di un computer, va là dentro e li trova lì, capito? Ma se no li vendono anche. Aspetta, ti mando quelli che vendono anche. Ehi, alimentatori di computer già ne ho qua. Ci sono delle indagini in corso. Ma